giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Elezioni regionali in lizza, 13 liste a sostegno di 4 candidati. Oggi e domani la presentazione delle liste per le comunali. Elly Schlein è la segretaria del Partito Democratico in regione. In 15.000 hanno votato per le primarie. Bonaccini doppiato. Adolescenti, il caso dell'accoltellamento tra coetanee a Muggia al vaglio della Procura dei Minori. La pace non si fa con le armi. Manifestazioni di piazza a un anno dall'attacco russo all'Ucraina. Turismo montano, la stagione si allunga grazie alle grandi manifestazioni a Tarvisio e riflesso positivo dei mondiali di sci nordico in Slovenia. Musica Rudolf Buchbinder, il suo Beethoven a Udine con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. A Trieste di scena il nuovo trio italiano d'archi. Udine, i grandi rimpianti, l'Udinese al Friuli si fa raggiungere dallo Spezia sul 2-2 nel basket, l'Apu a Chieti superata all'ultimo secondo. Un secolo di pallacanestro e storia, l'intreccio fra sport, politica ed economia regionale in un libro ottomani che viene presentato a Udine. Lunedì 27 febbraio, sono le 7:19, buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Subito uno sguardo alla situazione del tempo: cielo variabile sulla costa, nuvoloso in pianure sulle prealpi, coperto sulle aree montane. Le temperature registrate alle 6 a Trieste ci sono 3 gradi. Ha continuato a soffiare nella notte la bora, ora soffia a 60 km orari di media, le raffiche nella notte hanno superato i 100. A Udine 3 gradi e 5 decimi, a Pordenone e a Gorizia 3, nell'area montana a Tolmezzo 1 grado, a Tarvisio meno 4, a Sappada meno 5, 3 gradi e mezzo sotto zero a Forni di Sopra, meno 5 e mezzo sul Piancavallo, sullo Zoncolan meno 10 e 5 decimi, sull'Ussari meno 11 e mezzo. Tornando sulla costa, Lignano 6 a grado 4 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: di prima mattina c'era in prevalenza nuvoloso, anche coperto, specie a sud-est. Poi saranno possibili delle schiarite. Soffierà borra sostenuta sulla costa, anche forte a Trieste, sul Carso, specie di primo mattino. Vento moderato sostenuto da nord-est in pianura e sulla zona montana. Non è esclusa qualche locale nevicata debole in montagna. C'è la politica in primo piano con la presentazione delle liste per le elezioni del 2 e 3 aprile. Alle regionali, se tutte saranno ammesse, correranno 13 liste a sostegno di 4 candidati. 4 aspiranti presidenti, 13 liste, circa 600 candidati al Consiglio regionale. Sono i numeri provvisori della corsa per le elezioni del 2 e 3 aprile che saranno resi definitivi nei prossimi giorni, quando l'ufficio elettorale deciderà se ammettere o meno liste e candidati sulla base del rispetto dei requisiti di legge. In caso di rigetto è possibile il ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato. Il candidato presidente del centrodestra è l'uscente Massimiliano Fedriga, che ha a sostegno una lista civica a suo nome, oltre a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Autonomia Responsabile. Guida il centrosinistra Massimo Morituzzo, esponente di Patto per l'Autonomia. Oltre alla sua formazione, viene appoggiato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Open Sinistra FVG e Slovenska Skupnost. Hanno una sola lista a supporto, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli. Maran è il candidato del Terzo Polo, Azioni Tel Aviv più Europa. Tripoli è la presidente proposta da Insieme ai Liberi. 4 liste hanno dovuto raccogliere le firme perché non erano presenti alle scorse elezioni. Sono necessarie almeno 4.750 sottoscrizioni autenticate per partecipare nelle 5 circoscrizioni: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo. In consiglio c'è posto per 46 eletti, più il presidente di regione e il candidato presidente arrivato secondo. A differenza delle politiche, le liste non sono bloccate, saranno i cittadini attraverso le preferenze a decidere chi eleggere. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 2 e 3 aprile si volterà in regione anche per rinnovare i consigli di 24 comuni, tra cui Udine e Sacile, dove è previsto anche il turno di ballottaggio. Da questa mattina le candidature si possono presentare presso le segreterie dei comuni interessati, oggi dalle 8 alle 20 e domani dalle 8 alle 12. Le primarie del Partito Democratico: è stata schiacciante in Friuli Venezia Giulia la vittoria di Elly Schlein, nuova segretaria del partito. Schlein ha quasi doppiato Stefano Bonaccini nei consensi con il 64% rispetto al 36%. Una vittoria ancora più chiara a Trieste, dove la percentuale della vincitrice ha superato il 70%. Ad andare a votare in regione sono state più di 15.000 persone. Una forte partecipazione che, secondo secondo segretario regionale del PD Renzo Oliva, per qualcuno è in attesa, ma invece conferma come la comunità dei democratici sia vitale e risponda nei momenti cruciali per il paese e per il partito. La cronaca è stato sconcerto la vicenda accaduta sabato sera a Muggia del ferimento di una 14enne da parte di un'amica coetanea per motivi passionali. L'arma da taglio non ha provocato gravi danni, ma è gravissimo il gesto, su cui ora sono attese le valutazioni della Procura dei minori. Un litigio scatenato dalla rivalità per le attenzioni di un ragazzo. Poi una 15enne ha colpito una sua coetanea tra la spalla e il petto con un coltello. È successo sabato sera a Muggia, in via Frausin, una strada residenziale vicino al centro. L'adolescente ferita è stata medicata all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste e ne è uscita con una prognosi di 7 giorni. La presunta responsabile dell'aggressione è stata trovata a casa dai carabinieri poco dopo il fatto. Sentite dalle forze dell'ordine, le ragazze, entrambe di Muggia, amiche da tempo, hanno espresso l'intenzione di mettere da parte l'astio. L'episodio è ora all'attenzione della Procura per i minori di Trieste, che dovrà valutare quale percorso attuare per l'autrice dell'aggressione. Ma quali sono le cause della maggiore frequenza registrata nelle cronache di casi di violenza tra minori? Lucia Becce, psicologa psicoterapeuta. L'adolescenza è sempre un tempo in cui si agitano delle passioni molto aggressive. Quello che vediamo nella clinica è che queste pulsioni possono ritornare su se stessi attraverso sintomi come il disturbo alimentare, l'attacco di panico, il ritiro sociale o l'autolesionismo, che possiamo vedere come il rovescio della medaglia di questo episodio di fatto. O attraverso appunto la violenza verso l'altro, quando per esempio vediamo conflitti esasperati nelle famiglie o appunto questi agiti verso i pari. Questo malessere diventa incontrollato quando non trova uno sfogo, per esempio nello studio, nel gruppo, nella creatività, come è successo a molti ragazzi a causa dell'isolamento durante la pandemia. Questi ragazzi non hanno avuto molte occasioni o spazio in questi anni di fare le prove generali di come stare insieme, come incanalare queste pulsioni attraverso la relazione con gli altri. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Lavora anche nelle prime ore di oggi, come abbiamo sentito ha toccato i 100 chilometri a Trieste, ieri le raffiche avevano toccato i 120 sulla riviera di Barcole, un pino è stato sradicato. Per tutta la domenica sono proseguite in mare le operazioni da parte dei rimorchiatori e dei piloti del porto per l'assistenza alle navi in difficoltà con gli ancoraggi. Anche a Grado un grande pino è stato abbattuto dal vento, le radici sollevandosi hanno danneggiato una condotta dell'acqua interrompendo numerose utenze. Nel Goriziano sono stati una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Manifestazione di solidarietà verso l'Ucraina ieri a Udine, a Trieste, a un anno dall'inizio dell'aggressione russa a Udine, circa 200 persone hanno dato vita a una cerimonia in piazza 20 settembre organizzata dall'Associazione Ucraina Friuli. Ascoltiamo la presidente Victoria Schiba. Dobbiamo lottare tutti per la pace, però la pace giusta, perché purtroppo ci sentono le voci che basta dare le armi all'Ucraina per avere la pace. No, noi dobbiamo lottare per avere la pace giusta e in questo contiamo per avere il sostegno del tutto il mondo democratico. Sono stati numerosi gli interventi durante la manifestazione che si è aperta con le note dell'inno nazionale ucraino, ricordati i gesti di solidarietà espressi dal popolo del Friuli Venezia Giulia e l'ospitalità per le centinaia di famiglie e bambini scappati dalla loro terra. E proprio i bambini sono stati i protagonisti della manifestazione, con i disegni fatti nei vari laboratori e per il lancio di palloncini con i colori della bandiera e legati con un nastro nero per ricordare i tanti bambini morti durante il conflitto. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi al 10 marzo all'aeroporto di Aviano saranno ampliate le attività di addestramento del 31esimo stormo anche al di là del consueto orario di volo. Secondo quanto comunicato dal comando, l'esercitazione autorizzata dall'aeronautica militare comprende l'incremento dei voli, la diffusione di messaggi sonori attraverso il sistema di amplificazione dell'aeroporto ed esplosioni simulate che potranno essere udite nelle aree adiacenti il campo. I temi dell'economia e del lavoro, le infrastrutture ferroviarie del nord-est, il loro ampliamento, l'accrescimento in ambito portuale, i servizi e l'organizzazione del sistema attuale e l'ulteriore sviluppo ferroviario del porto di Trieste saranno il tema al centro di un incontro stasera a Trieste organizzato dal Propeller Club nella sala Piccola Fenice alle 18. Il presidente del Propeller, Fabrizio Zerbini, ha chiamato a intervenire Carlo De Giuseppe, direttore commerciale nord-est di Rete Ferroviaria Italiana, Paolo Crescenzi, responsabile di direzione infrastrutture ferroviarie e viabilità dell'autorità portuale, Maurizio Cocciancic, amministratore delegato di Adriafer, e Giovanni Longo, che insegna ingegneria dei trasporti all'Università di Trieste. E questa mattina a Trieste si parlerà di turismo nautico ed economia del mare in un convegno organizzato in Camera di Commercio da Assonautica, che avrà il presidente nazionale Giovanni Acampora tra i relatori. Interverranno anche il segretario dell'autorità portuale Torbianelli, l'amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri Mariani e il comandante della Capitaneria di Porto del Prete. Ormai alle soglie di marzo le località montane cominciano a tirare le somme di una stagione invernale dai numeri più che soddisfacenti. Nel Tarvisiano, per esempio, si sono fatti sentire i riflessi dei mondiali di sci nordico a Planizza. Una stagione invernale da incorniciare per gli albergatori del Tarvisiano. Anche se manca meno di un mese alla chiusura degli impianti sciistici, gli operatori della montagna tracciano un primo bilancio sull'andamento delle presenze nelle strutture ricettive. Se nel periodo delle festività natalizie si è registrato il tutto esaurito, anche in quello successivo fino al carnevale il coefficiente di riempimento delle stanze è sempre stato superiore al 95%. Un dato che ha soddisfatto la categoria dopo i 2 anni di sofferenza a causa del Covid. Giovanna Liuzzo, albergatrice. Si è registrato il tutto esaurito con una richiesta superiore a quella che poteva essere la nostra offerta già dal dicembre e a tutt'oggi ancora si prevede almeno fino alla metà di marzo un tutto esaurito. Turisti che sono arrivati, oltre che dalla nostra regione, dalla vicina Austria, Slovenia e non solo. Diego Bellotto, Federalberghi di Tervisio. Dopo l'Epifania abbiamo avuto un gran ritorno dei paesi dell'est, soliti clienti nostri, ma con aggiunte da Norvegia, Finlandia, questi paesi più nordici che hanno anche notoriamente una buona capacità di spesa. E non è mancata qualche gradita sorpresa. I'm from the USA, I'm here in Valbruna. Arrivo dagli Stati Uniti, mi piace molto Valbruna, sono venuto qui per sciare e per vedere i mondiali di sci di fondo a Planizza. Già, oltre agli appassionati, sono molte le nazionali che hanno scelto il Tarvisiano in questa settimana per pernottare durante i mondiali di sci nordico di Planizza, località slovena a pochi chilometri dal confine di Fusine, una decisione che ha comportato qualche piccolo disagio per i tradizionali ospiti. Vito Anselmi, albergatore. Tarvisio è stato monopolizzato da questo evento importantissimo e questo ci ha evitato di poter ospitare i nostri abituali clienti, ma comunque abbiamo lavorato tanto, abbiamo conosciuto tanta altra gente, ci siamo fatti conoscere. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il presidente del gruppo Fincantieri, Claudio Graziano, sarà oggi ospite del Consorzio Universitario Pordenonese in collaborazione con l'Associazione Norberto Bobbio. L'intervento di Graziano in videoconferenza verterà su difesa comune europea e ruolo del settore industriale. L'inizio alle 12. Un incontro di approfondimento sul bando regionale per l'utilizzo delle energie rinnovabili organizzato a Udine da Confindustria nella sede di Palazzo Toriani alle 15. Intervengono tra gli altri Fabrizio Corte, responsabile degli aspetti tecnici del bando, e Magda Uliana, direttore centrale attività produttive e turismo della regione. Ieri si è svolta l'assemblea della Pro Pordenone, tutta indirizzata all'evoluzione del sodalizio che punta a diventare associazione di promozione sociale. Si è aperta con un omaggio a Lino Zanussi, uno degli imprenditori simbolo della provincia pordenonese, la 76esima assemblea annuale della Pro Pordenone, la storica associazione che tutela e promuove gli interessi sociali e culturali della destra Tagliamento, oltre a organizzare manifestazioni come il mercatino dell'antiquariato che in concomitanza della riunione ha popolato le vie del centro. Un'assemblea che segna un cambiamento significativo con l'adeguamento dello statuto per trasformare il sodalizio da Onlus ad APS, Associazione di Promozione Sociale, in base alle nuove norme sul terzo settore, e che inaugura l'anno in cui vedrà la luce la nuova sede ampliata dell'associazione. Un progetto approvato a fine 2019 e che è stato rallentato a causa della pandemia. Grazie anche a un contributo della regione, ora i lavori sono addirittura d'arrivo. Giuseppe Pedicini, presidente della Pro Pordenone. Sarà una sede permanente, noi realizzeremo una sala riunioni per un centinaio di posti, quindi spero che la prossima assemblea la faremo lì, anzi dovremo farla lì. La nuova sede, nella quale troverà posto anche la scuola di musica Pietro Edo, punta a diventare un nuovo punto di riferimento culturale per la città di Pordenone. Avremo anche una biblioteca monotematica, dove raccoglieremo solo pubblicazioni riguardante la città e la provincia di Pordenone, il territorio pordenonese. In questa biblioteca monotematica ospiteremo e sarà catalogata tutta la collezione argentina, che è una collezione molto vasta, proprio sul territorio, sulla città pordenonese. E quindi questo sarà un fulcro nuovo all'interno della città di Pordenone. Pordenone, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'ammiraglio Vincenzo Vitale, già direttore marittimo e comandante del porto di Trieste, riceverà oggi il sigillo trecentesco della città. La cerimonia si svolgerà in municipio alle 12. È attesa per domani, martedì 28, l'approvazione del testo unico di legge 175 del 2021 sulle malattie rare, in occasione della 16ª giornata dedicata alle patologie che insorgono in meno di 5 casi ogni 10.000 abitanti. In Friuli Venezia Giulia il fenomeno riguarda all'incirca 25.000 persone, di cui quasi la metà in età adulta, e coinvolge una trentina di associazioni. A Maurizio Scarpa, responsabile centro di coordinamento regionale malattie rare, abbiamo chiesto un quadro della situazione nel territorio. C'è purtroppo ancora un ritardo importantissimo di diagnosi, c'è ancora purtroppo un ritardo nel trattamento di queste patologie, anche se in regione siamo tra le più veloci ad adottare tutte le terapie, anche le più innovative. Però una grandissima parte di queste malattie non hanno ancora terapia. La maggior parte delle difficoltà delle famiglie su che cosa si concentra? Poi io credo che ci sia forse anche un discorso di isolamento per queste persone, sì. A volte. Bisogna sfatare un attimo il discorso che siano soltanto malattie che colpiscono i bambini, perché il 50% dei nostri pazienti sono adulti. Quindi le famiglie sono coinvolte e colpite a tutti i livelli, dai genitori ai vicini, ai parenti, ai caregiver cosiddetti che assistono a questi pazienti. I bisogni sono tantissimi sulla vita quotidiana di queste malattie, quindi purtroppo non riusciamo a far fronte a tutte le esigenze di terapie domiciliari piuttosto che di fisioterapia, piuttosto che di terapie palliative, cosa sulla quale peraltro stiamo lavorando. Anche le spese che le famiglie devono sostenere sul loro bilancio sono moltissime, anche se la legge permette di avere un'esenzione alla spesa farmaceutica piuttosto importante. Questo dovrebbe essere il punto nodale del testo unico del 2021, la 175, che prevede anche, diciamo, dei piani terapeutici personalizzati e anche un'assistenza alle famiglie. La pagina degli spettacoli, in primo piano la musica, il concerto a Udine al Teatro Nuovo dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti e del pianista austriaco Rudolf Buchbinder, uno dei maggiori interpreti beethoveniani di oggi. Tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, il programma che spazierà dal concerto in sol maggiore, opera 58 per pianoforte e orchestra, alla sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60. Buchbinder, 76 anni, ha eseguito più di 60 volte l'integrale delle sonate per pianoforte di Beethoven. Per Deutsche Grammophon ha inciso un anno e mezzo fa le 32 sonate e i 5 concerti. Alessandro Milani, violino, Luca Ranieri, viola, Pierpaolo Toso, violoncello, ovvero il nuovo trio italiano d'archi, una delle formazioni più prestigiose del panorama cameristico italiano. Sarà stasera a Trieste, ospite della Società dei Concerti per la 91ª stagione. Giornate intense quelle triestine per i protagonisti. Ieri Milani e Ranieri hanno suonato anche con l'orchestra Busoni, la sinfonia concertante di Mozart, e nel pomeriggio l'hanno incisa per l'etichetta Dynamic. Oggi l'appuntamento al Teatro Verdi, preceduto dalla prolusione dei musicisti al Caffè degli Specchi alle 19.15. Nel programma del concerto, abbiamo chiesto a Luca Ranieri, ci sono Schubert, Schnittke e Beethoven, filo rosso viennese ma con salti temporali da acrobati. C'è il filo conduttore della scuola di Vienna di composizione, che è la scuola per eccellenza del mondo musicale. Schnittke è stato scritto nel 1985, nell'occasione del centenario della nascita di Alban Berg, perché Schnittke era molto legato ad Alban Berg. Nonostante ci siano due secoli di distanza, abbiamo voluto avere comunque un senso filologico e di scuola musicale nel presentare questo programma. Con Milani e Toso siete pieni di impegni, come ci si sdoppia tra il ruolo in ambito orchestrale e l'attività cameristica? Abbiamo una fortuna, diciamo così, tra i nostri impegni innumerevoli che abbiamo in orchestra e che magari possiamo passare del tempo insieme, magari con dei programmi, con delle prove, e nei momenti che abbiamo in prova, nei momenti, nei tempi morti o delle giornate, nelle mezze giornate, abbiamo la possibilità appunto di trovarci in trio e provare insieme. Questa è una cosa che noi facciamo costantemente, delle prove. Siamo molto amici anche, fra l'altro, essere tre colleghi, siamo anche molto amici, e questo fa sì che possiamo condividere anche e scambiarci con tre caratteri diversi, però cercare di avere un punto comune che è quello che ci permette di lavorare per tanti anni insieme. Altri spettacoli di oggi: Teresa Mannino è la protagonista di Il Giaguaro mi guarda storto al Politeama Rossetti di Trieste, in data unica, l'ultimo lavoro della comica palermitana, il cui tour era partito a dicembre. Il filo conduttore, promette Mannino, è il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento. A Udine il pianista e compositore friulano Sebastian Dibin sarà protagonista alle 17.45 in sala Aiace di un incontro storico-musicale ispirato alla vicenda di Giulietta e Romeo. Un'introduzione storica di Albino Comelli illustrerà le vicende che nel 1511 coinvolsero la nobildonna udinese Lucina Savornian del Monte e il capitano vicentino Luigi da Porto, vicende che poi sarebbero state riprese e riadattate nel testo teatrale di Shakespeare. Sebastian Dibin eseguirà in anteprima alcuni brani inediti dedicati a Lucina Savornian e a Luigi da Porto. L'ingresso è libero. È dedicato alle donne di Trieste l'appuntamento in calendario alle 17.30 per il cartellone dei lunedì dello Schmidl a Palazzo Gopcevic. Un testo scritto e interpretato da Michela Vitali, attrice triestina, allieva di Ugo Amodeo. Un monologo in cui rivivono donne di cultura come Anita Pittoni, Iole Silvani, Laura Borghi Mestroni e Edda Vidiz, accanto alle anonime ma vivaci popolani di un tempo, dalle tabacchine alle vendrigole. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Al Teatro Miela di Trieste quelli del Pupkin offrono l'Aperi Show alle 18.30 e alle 19.30 lo show vero e proprio. Titolo della serata: Ovo via canaglia. Pare che la compagnia abbia consegnato un suo innovativo progetto per l'ovo via a gettone, ovviamente con talleri giganti, e ne vuole discutere con il pubblico. La pagina dello sport, iniziando dal calcio, l'Udinese manca ancora l'appuntamento con la vittoria al Friuli contro lo Spezia, va sotto dopo una manciata di minuti, recupera con Beto, sorpassa con Pereira nella ripresa, ma non riesce a chiudere il match che finisce per 2-2. L'Udinese in casa non sa più vincere, i friulani si fanno rimontare a meno di 20 minuti dalla fine dallo Spezia, facendo arrabbiare il tecnico Sottil. Liguri subito in vantaggio al sesto minuto con Zola dopo un errore di Success. L'Udinese rischia di subire il raddoppio, ma Burabia sbaglia una facile occasione e al 22esimo arriva la rete del pareggio di Beto, servito dallo stesso Success sul filo del fuorigioco, gol assegnato dal VAR. Sul finire del tempo il portiere dello Spezia salva su Esibue e nella ripresa al decimo la rete del vantaggio friulano di Pereira. Stadio Friuli che esulta, ma la squadra di Sottil rischia ancora in difesa, salvata da Perez e dallo Spezia, fino al 27esimo, quando un errore di Samarcic ispira il contropiede di Agudelo, concluso dal gol di Nzola. Doppietta e undicesima rete in campionato per l'attaccante angolano. Ancora un'occasione per Beto, sventata da Drongoschi prima dei fischi dei tifosi friulani che non assistono ad una vittoria in casa da settembre. Sentiamo il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil. Non accetto più questi gol qua, perché comunque la verità va detta, è inutile prendere in giro le persone, è inutile prenderci in giro noi stessi, perché qua io non ho niente da dire sotto il profilo dell'impegno, abbiamo creato anche oggi, abbiamo tirato anche oggi, abbiamo avuto tante occasioni gol, però noi non possiamo regalare due gol in questa maniera qui. E però siamo sempre delle stesse cose, abbiamo fatto due autogol col Sassuolo, poi abbiamo fatto un autogol col Verona, e poi sempre a dire però la prestazione c'è stata, non basta più, non mi interessa più neanche dire questa, la verità va detta, abbiamo dei limiti, che abbiamo, evidentemente abbiamo dei limiti, dobbiamo accettarlo, dobbiamo combattere tutte le partite, devo essere io bravo a cercare di eliminare queste cose, perché non si può accettare accettare di regalare una partita allo Spezia, una partita in controllo totale. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Serie C il Pordenone, quarto a 48 punti, giocherà stasera sul campo del Feralpi Salò, terzo a 50. Scontro al vertice, chi vince balza in testa. La classifica oggi è guidata dal Lecco, che ha battuto per 2-1 l'Arzignano, e dalla Pro Sesto con un 2-2 con la Pro Vercelli, entrambe a quota 51. In coda la sconfitta interna del Piacenza per 0-3 con il Trento lascia all'ultimo posto gli emiliani scavalcati dalla Triestina. E ora la Serie D, vittoria del Chialins Muzane nella sfida casalinga contro la Virtus Bolzano. L'1-0 consente alla squadra friulana di approdare al quarto posto in classifica con 39 punti in zona playoff. Vittoria anche per il Tor Viscosa nel match fuori casa contro la Luparense 2-0. La squadra rimane ultima ma aggancia a quota 24 il Levico Terme battuto in casa. Basket in A2 maschile, sconfitta bruciante per la Poldwell West a Chieti per 70-69. La squadra friulana, trascinata da Gentile con 25 punti, rincorre per tutta la partita ma supera gli avversari a un secondo dalla fine. Pare fatta, e invece no, in quel secondo c'è il tempo per il controsorpasso dei padroni di casa con un tap-in sulla rimessa dal fondo. Proprio Gentile si lascia andare una reazione che probabilmente gli costerà una squalifica. Pallanuoto, si è chiusa con il quinto posto la Final Eight di Coppa Italia di Serie 1 maschile per la Pallanuoto Trieste. Nell'ultima partita giocata a Genova, la terza in tre giorni, ieri pomeriggio la squadra alabardata ha superato il quinto 10-5 Mattatore in Aba con 4 reti. Prossimo impegno per la squadra di Bettini, la semifinale di andata di Eurocup contro Savona, mercoledì sera alla Piscina Bianchi di Trieste. Oltre 1000 concorrenti hanno dato vita alla UNESCO Cities Marathon, disputata sul percorso da Palmanova ad Aquileia e ritorno. Ha vinto Alessio Milani, quarantenne di Farra di Sonzo, con il tempo di 2 ore 31 minuti e 57 secondi. Ha preceduto Andrea Mauri e l'austriaco Christian Lackinger. Tra le donne, successo per la croata Ingrid Nicolesic in poco più di 3 ore e 19 minuti. E ora i motori. A Sacile si è disputata la prima gara regionale del campionato di Enduro Country. C'erano 180 piloti in rappresentanza di un centinaio di squadre. Si è aperta ufficialmente a Sacile, con la 29esima edizione dell'Albatros Enduro Country, la stagione motociclistica regionale. La sfida, che tradizionalmente inaugura il calendario agonistico del settore, è andata in scena sul circuito di San Giovanni del Tempio, casa degli organizzatori del Motoclub Albatros, alla presenza di un folto pubblico di appassionati di tutte le età. All'evento, valido come prima gara del campionato regionale di Enduro Country, hanno partecipato 180 piloti in rappresentanza di 100 squadre. La disciplina prevede infatti due manche della durata di 2 ore, in cui i piloti corrono in coppia dandosi periodicamente il cambio. 4 le classi di gara previste, 2 tempi, 4 tempi, unica mista, cadetti e marathon. Quest'ultima l'unica che prevede un singolo pilota sul percorso per tutte le 4 ore. Al termine delle 2 sessioni si è poi disputata la Flash Race, una sfida spettacolare a eliminazione diretta in cui si sono affrontati tutti i migliori della prova a coppie. Tra i piloti di punta presenti, il 9 volte campione europeo, l'avianese Maurizio Micheluz, e il 3 volte campione del mondo della classe cross country Baia, il pordenonese Alessandro Ruoso. Assente invece, perché impegnato in sessioni di test, il vincitore delle ultime 2 edizioni e campione del mondo in carica della classe Enduro E1, il veneto Andrea Verona. Sacile, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Un libro a 8 mani con numerose testimonianze e fotografie storiche per raccontare 100 anni di pallacanestro in regione, fra esaltanti imprese sportive, vicende politiche ed economiche, grandi sponsor e piccole società diventate esempi luminosi da consegnare agli annali. Si intitola Un secolo a canestro, lo pubblica Aviani Aviani e lo hanno scritto Flavio Pressacco, Roberto Ponticello, Marino Firmani e Roberto Collini, che lo presenteranno alle 11:15 a Udine al Pala Benedetti. Ma si tratta di un libro più di sport o di storia? Risponde Collini. Un libro che riflette in parte dei pezzi di storia della nostra regione. Abbraccia la prima metà del secolo, che va dagli anni 20, dagli albori della pallacanestro, fino al 76, l'anno del terremoto, che è stato un po' l'anno, lo spartiacque della vita regionale, soprattutto in Friuli, come in precedenza era stato il memorandum di Londra nel 54 per l'area giuliana. Una storia affascinante che ha riguardato sia la geopolitica, anche regionale, giornali, se pensiamo soltanto all'operazione Triestina-Milano che è stata messa in campo da Ferruccio Parri nell'immediato dopoguerra a Milano per difendere l'italianità proprio di Trieste, e poi la costituzione di tantissime società, penso alla Lega Nazionale di Trieste e di Monfalcone, che erano nate per contrapporsi a dei circoli filotitini che erano nati nell'area giuliana, oppure anche a quell'associazione che è stato il movimento istriano revisionista, che ha messo su una squadra di pallacanestro che ha operato per diversi anni. C'è stato tutto un riflesso geopolitico in quello che è stata l'attività di questo sport, che è stato governato anche moltissimo nel dopoguerra dall'influenza politica. Pensiamo all'attività svolta dalla Democrazia Cristiana attraverso la Libertas, poi l'Edera, che era espressione del Partito Repubblicano, la fiamma del Movimento Sociale, l'Umanità del Partito Socialdemocratico, ma c'era anche una contrapposizione, come dire, religiosa, perché da una parte c'erano i salesiani del Don Bosco a Trieste e a Pordenone, e dall'altra i gesuiti dell'Ardita di Gorizia, e poi ovviamente l'attività meritoria degli oratori o quella dei ricreatori proprio di Trieste, che coniugavano l'attività sportiva con l'avviamento professionale anche dei giovani. Canottaggio, la gloriosa e quasi centenaria storia della società nautica Giacinto Pullino è raccontata in un libro che sarà presentato alle 16.30 a Trieste nella sede dell'Unione degli Istriani dal suo autore Franco Stenner. Fondata a Isola d'Istria nel 1925, la Pullino fu sciolta a causa della cessione di quelle terre alla Jugoslavia e ricostituita in esilio. Oggi è pienamente attiva a Muggia. Sette e 50, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. La presentazione delle 13 liste per le elezioni regionali apre il Messaggero Veneto, che in fotonotizia pubblica le foto dei quattro candidati, cioè Fedriga, Morettuzzo, Maran e Tripoli. Entrambe le edizioni del quotidiano condividono poi in prima pagina la notizia del pareggio dell'Udinese. L'edizione di Udine informa sulla chiusura dei lavori all'ascensore del castello tra due settimane e dà spazio a un bilancio sui danni del vento che nella bassa, raggiungendo i 60 km orari, ha inflitto danni al tetto della scuola elementare Zorutti. Il vento è protagonista anche nell'edizione di Pordenone, che in capocronaca dà conto della riduzione dello smog. In città si erano già registrati 16 sforamenti alla soglia di PM10, con conseguenze positive fino a Piancavallo, dove la caduta di molta neve sta regalando numeri record alla stagione sciistica. Spazio poi all'assemblea della Pro Pordenone, di cui vi abbiamo dato conto, che per la prima volta ha chiuso il bilancio, un lieve passivo. Siamo al piccolo, titolo principale per la politica, regione, corsa a 4, in palio la carica di governatore, depositati i simboli di 13 liste per oltre 530 candidati e all'interno gli approfondimenti sulle formazioni che sosterranno i quattro pretendenti alla carica di presidente del Friuli Venezia Giulia. Ma le prime tre pagine del quotidiano sono per la strage di Crotone, il naufragio di un peschereccio che trasportava quasi 200 migranti, i morti potrebbero essere più della metà. Sulla prima pagina del piccolo, edizione di Trieste, spazio anche ai danni della bora, una grande foto mostra il pino abbattuto dalle raffiche sul lungomare di Barcola. L'apertura della cronaca cittadina è per il commercio. Persi a Trieste in 10 anni ben 545 negozi, scrive il piccolo, trend a picco in periferia. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone, fotonotizia sulle terme romane verso la riapertura, la manutenzione si è conclusa a Monfalcone. La cronaca di Gorizia invece si occupa delle sanzioni inflitte agli automobilisti grazie al telelaser. Ben 122, le strade dove si corre di più sono via Terza Armata, Piedimonte e via Brigata Re. Le liste per le elezioni regionali aprono anche il Gazzettino, che in fotonotizia ricorda il distacco amministrativo tra Udine e Pordenone nel 1968. L'edizione di Udine parla della richiesta del comune di 50 posti per l'accoglienza di famiglie ucraine e poi informa sulla ricerca di 240.000 euro per raggiungere la cifra necessaria a ristrutturare il rifugio Corsi sulle Alpi Giulie. L'edizione di Pordenone del Gazzettino pubblica un'analisi sugli episodi di violenza in strada dopo la rissa di via Mazzini, che si stanno infittendo tra Piazza Risorgimento e la stazione ferroviaria. C'è poi un reportage sulla necessità di un maggior numero di sportelli bancomat in città, reportage che sottolinea come i quartieri di Valle Noncello e San Gregorio siano rimasti privi di servizio prelievi contanti perché anche gli uffici postali della zona sud ne sono sprovvisti. Infine si parla della situazione di Calle degli Andadori, di cui la Cassazione deve ancora decidere la proprietà. Nel frattempo l'area resta abbandonata. Prima di chiudere c'è il tempo per una notizia che riguarda la viabilità a Udine, dove cominciano questa mattina i lavori di riasfaltatura dei controviali nord e sud di Valle Venezia, un'operazione prevista in 8 fasi fino al 17 marzo, la prima che riguarderà il controviale nord da piazzale 26 luglio alla rotatoria di via Firenze si concluderà il 3 marzo. Il comune di Udine precisa che Valle Venezia sarà transitabile per l'intera durata dell'intervento, i marciapiedi sui controviali saranno regolarmente accessibili e il servizio di trasporto pubblico locale non subirà alcuna modifica. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano sarà dedicata ai 70 anni di costituzione e fondazione dell'ente Friuli nel mondo. Ospite il presidente Loris Basso. Alle 11.20 tra le parole il cuore su Pino Roveredo e gli strumenti che usava quando incontrava da operatore sociale i detenuti, i tossicodipendenti, gli utenti dei vari centri di salute mentale. Alle 11.55 nel segno del segno con il racconto del rapporto tra due grandi del design e della grafica, Ettore Sozzas e Luigi Spazzapan, documentato dalla mostra in corso a Gradisca. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Federico Comar, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. 7.54, 40 secondi, ora le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo più tardi, grazie per la vostra attenzione. Buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.